E allora, benvenuti e benvenute ad Entropia Massima. Siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Prima puntata di Entropia Massima, la trasmissione del lunedì sera in epoca da misure speciali per coronavirus. Lo scorso lunedì abbiamo trasmesso l'ultima puntata prima del decreto che ha dichiarato l'intera penisola italica zona rossa, e infatti siamo stati praticamente, abbiamo fatto l'ultima puntata in un regime ancora semi normale, e poi poco dopo la fine della puntata sono state annunciate le misure straordinarie. La puntata di oggi è un primo esperimento di registrazione da remoto che stiamo effettuando. E infatti ci siamo dotati anche noi internamente alla radio di strumenti, per così dire, di smart working, come si dice in questi giorni. Questa è una parola, una delle parole che si sentono dire più spesso in questi giorni. E comunque noi di Radio Onda Rossa continuiamo le trasmissioni, anzi aumentiamo anche la quantità di trasmesso. E vedrete poi che nei prossimi giorni ci saranno anche alcune novità che andremo a inserire via via nel palinsesto, perché riteniamo che questo sia un momento fondamentale per trasmettere, per tenere gli occhi ben aperti, le orecchie ben aperte su quello che sta succedendo, cercando di riportarlo agli ascoltatori. E speriamo di fare un buon servizio. All'inizio di questa trasmissione noi vogliamo salutare in particolare chi ci segue dal carcere. Lo facciamo sempre, in questo caso lo facciamo in maniera ancora più particolare. Riteniamo davvero assurdo che si debba continuare a vivere in condizione di detenzione in un periodo come questo, in un luogo, quello del carcere, affollatissimo, quindi dove si vive vicini, dove il rischio di contagio è quindi molto forte e inevitabile, sostanzialmente, date le circostanze. Inoltre, le persone che sfortunatamente si trovano a vivere in carcere hanno forti disagi, disagi fisici, disagi psicofisici, in certi casi hanno anche delle patologie. Si tratta in generale di persone molto debilitate, e quindi è veramente pazzesco che debbano vivere questa situazione, che li espone a un rischio concreto di ammalarsi e di morire. Quindi un abbraccio particolare a chi ci sta ad ascoltare da dietro le sbarre, sperando di vederli presto fuori, come in tantissimi stanno chiedendo in questo momento, ma pare che non ci sia molto da fare, purtroppo, in merito. Purtroppo nei momenti di crisi gli ultimi diventano ancora più ultimi, e se diciamo, io spesso mi diverto a guardare i commenti ai quotidiani online, i commenti dei lettori, e ce ne sono chiaramente alcuni particolarmente giustizialisti, che possiamo tranquillamente dirlo. Per esempio, sul Fatto Quotidiano, tendenzialmente il lettore tende ad essere giustizialista, ve lo garantisco, perché ho una passione smodata per i commenti dei lettori, e li leggo veramente assiduamente tutti i giorni, più volte al giorno. E devo dire che in questi ultimi tempi ho trovato ancora più giustizialisti questi commenti. Da questo io ne tiro fuori un termometro della situazione che, se vogliamo, è ancora più grave. E quindi un motivo di più per rimanere vicini, ancorché virtualmente, attraverso la radio, a chi si trova a vivere in carcere e non riceve la solidarietà che già non riceve di solito, ma in questo momento ne riceve ancora di meno di solidarietà di tutti i ben pensanti che praticamente vorrebbero mettere le persone in carcere e buttare la chiave, e se ne sbattono di quelle che possono essere le conseguenze in un momento grave come quello che stiamo vivendo. Ma non solo gli ultimi ricevono ingiustizie, anche i penultimi ricevono ingiustizie, e quindi anche chi vive in condizioni di libertà, ma subisce comunque tutte le storture di un sistema di sfruttamento, che è il sistema in cui siamo chiaramente tutti e tutte inseriti. E quindi i più poveri sostanzialmente hanno delle criticità in questo momento, criticità sicuramente anche sanitarie, si è visto che si sta cercando di, cioè sostanzialmente con la scarsità di mezzi che ci sono a disposizione, con la scarsità di spazi adeguati e per fare ad esempio le terapie intensive, si procederà o se non si sta già procedendo a selezionare quali pazienti sottoporre a cure perché tutti non li si può mettere anche a livello lavorativo, questo è vero. Infatti, si parla molto di smart working per chi ha un lavoro che può consentire questo genere di modalità, per tutti gli altri, invece, sembrerebbe di no. E sembrerebbe che comunque la produzione deve andare avanti per quelle che sono le necessità. Ecco, noi oggi siamo ad Entropia Massima e vogliamo parlare di un tema che ha a che fare con quello che è il tema della puntata di oggi. Oggi nella puntata di oggi parliamo di tecnologia, stiamo parlando di tecnologia, di automazione, di intelligenza artificiale ormai da molti anni in questo ciclo di puntate. Ci sembrava opportuno oggi infatti fare proprio una puntata sullo smart working. Quindi questa modalità che consente a chi ha un lavoro che sostanzialmente gli impone di star seduto su una sedia davanti a un computer, non sono poche le persone che si trovano in questa situazione, ma certamente non sono tutte. Quindi ce ne sono tanti che vengono esclusi da questa possibilità o parzialmente o addirittura totalmente. E quindi cominciamo col dire che parlare di smart working significa parlare solamente di quelli che possono essere messi in condizioni di lavorare in questo modo. Se ne vogliamo parlare perché diciamo che ha a che fare con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che insomma sono un po' l'asse portante delle puntate che facciamo e che vi proponiamo. Gli strumenti esistono, ci sono da molti anni e molti di questi strumenti peraltro sono anche aperti e liberi, quindi si tratta di software libero oppure software open source, insomma. Quindi comunque strumenti esistono, sono stati testati, molti ce li hanno già pronti, beh oddio, molti forse no. Diciamo che alcuni ce li hanno già pronti, altri invece si stanno rapidamente adeguando, visto che non si sono preparati per tempo. E sono stati anche stanziati dei fondi. Sono stati anche stanziati dei fondi per consentire alle imprese di dotarsi degli strumenti che consentano ai dipendenti, ai collaboratori di lavorare da casa sostanzialmente. E quindi la situazione che stiamo vivendo, tutto sommato, può anche aprire delle opportunità. E se ne sta parlando molto in questi ultimi tempi. È certamente un momento in cui per necessità occorre forzatamente introdurre degli strumenti di automazione e di comunicazione a distanza. Questo serve chiaramente per ridurre gli spostamenti e per tenere le persone a casa. E noi pensiamo quindi che l'opportunità sia anche quella di parlare di riduzione del lavoro, eh? Non si può solo parlare sempre di efficienza, quindi di automazione e comunicazione a distanza per mantenere gli stessi livelli produttivi o addirittura per aumentare i livelli produttivi. Parliamo anche di riduzione del lavoro a ciò che è effettivamente necessario. Quindi non a una tortura, no? La tortura che in condizioni di normalità vede tutti e tutte noi, o diciamo quasi tutti e tutte, recarsi in un luogo ogni giorno anche quando non è esattamente necessario. Quindi questa è un'opportunità anche per renderci conto di questo, cioè che non è sempre necessario recarsi al lavoro, moltissime cose si possono fare da remoto e questo lo dicono chiaramente anche, come dire, gli industriali di Confindustria. Noi aggiungiamo che possiamo tranquillamente ridurre anche il carico di lavoro semplicemente a ciò che è necessario. E in questa circostanza, come in tante altre in cui abbiamo parlato delle tematiche dell'automazione nel lavoro, riteniamo che un'avvertenza che dovremmo portare avanti è quella di ridurre l'orario di lavoro. noi diciamo proprio dimezzarlo, e lo diciamo proprio come un portato, diciamo un'affermazione molto, molto politica, perché riteniamo che dimezzando l'orario di lavoro, ovviamente a parità di salario, si potrebbero avere dei livelli produttivi uguali a quelli attuali, e consentire però tanti altri vantaggi, come appunto quello di diminuire l'inquinamento, diminuire il rischio di ammalarsi, perché le persone potrebbero sostanzialmente curare maggiormente la propria salute, curare i propri affetti in famiglia, dedicarsi ad attività che possono essere edificanti per se stessi e per i propri cari, insomma tutta una serie di vantaggi. Quindi questo noi l'abbiamo sempre detto. Parliamo di smart working oggi, e in particolare vogliamo parlare di questa modalità lavorativa a distanza nel contesto della pubblica amministrazione, che ha un ruolo molto particolare, perché in effetti si potrebbe risparmiare moltissimo automatizzando tutti i vari procedimenti burocratici che costituiscono la struttura, l'ossatura principale della pubblica amministrazione. Questo non solo in Italia, ma in tutto il mondo, ovviamente. Dunque, cominciamo però, parlando di pubblica amministrazione, a parlare di chi non può fare lo smart working. E noi ci rendiamo conto di tutti quei mestieri che, per esempio, nella pubblica amministrazione emergono quando si fa il vuoto nelle nostre strade, il vuoto nei nostri uffici, il vuoto nelle stazioni, negli aeroporti. Riusciamo quindi a vedere meglio quello che rimane in questo vuoto. Ecco, sicuramente va citato il Servizio Sanitario Nazionale, gli infermieri, i medici, ma anche gli operatori sociosanitari e il supporto amministrativo. E dovremmo quindi garantire a tutti, come l'articolo 32 della Costituzione, uguaglianza, equità ed universalità del diritto alla salute. Quindi l'articolo recita così: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Ebbene, questo è possibile perché ci sono donne e uomini che ogni giorno lavorano e in questo momento stanno lottando coraggiosamente continuare a erogare i servizi. Peraltro questi servizi, questi diritti, sono diritti che sono stati conquistati dai nostri padri, dai nostri nonni, che hanno affermato questi veri e propri valori, che noi oggi riteniamo acquisiti, e che invece non sono assolutamente da considerare scontati, visto che nel mondo il diritto alla tutela della salute non è assolutamente riconosciuto come lo è dalle nostre parti. E quindi garantire cure gratuite per gli indigenti per molti paesi, e quindi per centinaia di milioni di persone, è ancora un miraggio. Quindi quando parliamo di pubblica amministrazione, di servizi essenziali per il cittadino, sostanzialmente parliamo di beni comuni che sono esposti, come tutti i beni comuni, alla deteriorazione dovuta alla poca cura. Quindi senza una cura comune questi beni si deteriorano. Per evitare la distruzione bisogna prendere consapevolezza, e con noi lo vogliamo fare proprio all'inizio di questa trasmissione, e proprio parlando di smart working, ma cominciando proprio da chi non lo può fare lo smart working. E quindi bisogna prendere consapevolezza di questi beni, degli effetti che hanno le scelte su questi beni, e in particolare vogliamo sottolineare come la poca cura e la poca manutenzione che si è vista negli ultimi anni sicuramente nel servizio sanitario, oggi noi la vediamo in maniera molto chiara, no? Si palesa, sono decine di miliardi, no? Quelli che sono stati tagliati negli ultimi 20 anni per la sanità. Adesso non ricordo il dato preciso, ma stiamo parlando di qualcosa come 80, tra 80 e 90 miliardi tagliati in 20 anni. Quindi c'è carenza di medici e di infermieri, c'è stato un grande disinvestimento anche per la ricerca, per la formazione. Sono state fatte tante riforme che sono state emanate e poi sostituite da altre senza sapere se le precedenti avevano avuto un effetto. Quindi questo sono cose che sappiamo e che vogliamo in questa circostanza ricordare sul Servizio Sanitario Nazionale. Oltre a quello ci sono anche altri dipendenti pubblici che costituiscono l'impalcatura su cui regge la nostra vita, e la nostra vita ancora ora da reclusi più o meno consenzienti, questa situazione da reclusi più o meno consenzienti che stiamo vivendo, noi possiamo vedere quali sono altri lavori per noi importanti. Nettezza urbana, questo è evidente, no? Chi svolge quei servizi essenziali per la nostra vita. Gestione, per esempio, anche dei trasporti pubblici, dei servizi pubblici, per chi nell'insegnamento sta fornendo anche lezioni online agli studenti, ai ragazzi e alle ragazze che frequentano le scuole di ogni ordine e grado. E in generale, insomma, per le centinaia di migliaia di donne e uomini che stanno lavorando per noi. Ecco, esclusi questi, molti altri però sono, come abbiamo detto, sono in una condizione in cui è possibile fare smart working, e questo è quello che sta emergendo in maniera molto chiara in questi ultimi tempi. La funzione pubblica, in relazione a questa emergenza Covid-19, spinge molto per il lavoro agile nella pubblica amministrazione. Ci è stato detto che lo smart working addirittura dovrà diventare la modalità ordinaria, questo è un termine che noi vogliamo sottolineare, ordinaria, quindi non straordinaria, ed essere esteso quindi anche alle attività che in precedenza potevano essere escluse da questa modalità. Quindi, come vedete, si sta davvero approfittando dell'occasione per per buttare il cuore oltre l'ostacolo rispetto a tanti progetti che negli scorsi anni erano stati portati avanti e che senza troppa decisione e comunque non erano stati completati. La ministra Dadone ha emesso la direttiva 2 del 2020, che sostituisce quella emanata il 26 febbraio e che la rafforza, e quindi si parla proprio di forma organizzativa ordinaria per lo smart working. Si parla, a fianco a questo, all'inizio di questa direttiva, appunto, anche di tutelare la salute dei cittadini e dipendenti, si parla di servizi essenziali e indifferibili, si parla di una rotazione tra i dipendenti che devono comunque prestare servizio in presenza, e questo è un altro concetto importante, garantendo anche che durante i turni ci possa essere chiaramente un distanziamento tra le persone, che le persone, diciamo, che gli utenti di questi servizi pure devono seguire queste medesime regole, e si parla quindi di appunto una presenza scaglionata per evitare assembramenti, ma si parla anche di massimo accesso ai servizi per via informatica. Ecco, questo io vi vado a sottolineare le parole più importanti che ho preso da questa novità, da questa direttiva, da tutto quello che si è prodotto in merito a questa direttiva. E quindi il lavoro agile come modalità ordinaria, lavoro agile è un altro termine per indicare smart working, il lavoro agile dunque deve diventare la modalità ordinaria e deve essere esteso ad attività escluse in precedenza, si diceva. Non sono previste più soglie minime e massime, le riunioni per via telematica devono diventare la norma, e questo, guardate, che è veramente qualcosa di forte, perché potrebbe davvero abbattere tantissimo, perché nei lavori dove si fanno molte riunioni, questa è una misura in effetti molto importante che consentirebbe alle persone di lavorare in modo agile, dunque da remoto. C'è da fare chiaramente un ripensamento in merito alle attività che possono essere oggetto di lavoro agile, questo è un altro punto molto importante che va sottolineato in queste misure che stanno introducendo, ed è importante anche che ci siano delle modalità semplificate di accesso a queste misure per tutto il personale che dovrà usare degli strumenti nuovi. Personale senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, si dice nella direttiva. Quindi vedete che la faccenda è una faccenda abbastanza importante, abbastanza grossa. Va bene, allora facciamo, diciamo, una prima pausa e vi faccio ascoltare adesso un brano tradizionale della tradizione anarchica, molto molto famoso, La Leggera, interpretato da Ginevra Di Marco. Il lunedì la testa mi vacilla, oi che meraviglia, non voglio lavorare. Il lunedì la testa mi vacilla, oi che meraviglia, non voglio lavorare. lavorare. Il giovedì poi la festa nazionale, il governo non permette che io vada a lavorare. Buonasera, dove vai? Io ti vengo a ritrovare. Allora torniamo in voce dopo questa gradevole pausa musicale che ci sembrava particolarmente adeguata alla situazione che stiamo vivendo. Una grandissima Ginevra Di Marco interpreta La Leggera. Bene, dicevamo quindi di smart working e stavamo dicendo che una delle cose da fare è quella di far sì che il personale che ne deve usufruire possa formarsi. Ed ecco che allora nasce un progetto, Solidarietà Digitale, di cui vi parlerò fra poco, progetto parlato da Paola Pisano, la ministra Paola Pisano, e in particolare il gruppo Digital 360, che appartiene a questo progetto, ha lanciato tutta una serie di videocorsi sullo smart working per gli enti pubblici, che si intitola così: Smart Working, consigli pratici per abilitare il lavoro agile. Ci sono quindi corsi anche per aziende private, Smart Working per l'emergenza coronavirus. Ci sono dei webinar cosiddetti, no? Dei seminari fatti su web, che quindi seminario web diventa webinar. Smart Working ai tempi del coronavirus, la testimonianza delle aziende e come trasformarlo in cambiamento reale. Una giornata di smart working efficace ed efficiente, una giornata da remoto, salute e sicurezza. Ecco, tanto per farvi alcuni esempi di materiale formativo che si sta diffondendo molto in questi giorni. E dicevamo quindi dell'iniziativa di Pisano Solidarietà Digitale, la potete trovare online, l'indirizzo è solidarietadigitale.agid.gov.it. Agit dell'Agenzia per l'Italia Digitale, quindi solidarietadigitale.agit.gov.it, lo potete cercare tranquillamente su qualunque motore di ricerca e lo trovate, la digitalizzazione a supporto di cittadini e imprese. Ebbene, qui su questa pagina troverete l'elenco di tutti i servizi disponibili che sono stati quindi messi a disposizione delle persone che in questo momento sono a casa e che possono avere le esigenze più varie, esigenze non solo lavorative, ma anche esigenze di svago, esigenze anche di servizi essenziali. Vediamo di che cosa si tratta. Beh, vi faccio un po' una sintesi delle decine e decine di servizi che sono elencati in questa pagina che vi ho indicato. Ci sono innanzitutto tutti i vari telefonici, tutti i vari operatori del telefonico che regalano in questo momento minuti e giga e quindi li offrono appunto, qui parliamo dei servizi collegati con le SIM card dei telefoni personali che possono avere più minuti, possono avere più, tutta una serie di offerte molto variegate a cui si può aderire, si possono avere delle scontistiche o proprio degli omaggi o per dei periodi limitati di tempo, per un mese, per due mesi, per tre mesi. Poi ci sono tutta una serie di servizi di videoconferenza, ecco, questi sono i servizi che vanno per la maggiore in questo momento. Sapete, ci sono vari strumenti più o meno utilizzati per fare delle videoconferenze e in questo momento sono anche abbastanza intasati. Non so se qualcuno di chi ci ascolta l'ha potuto verificare, io l'ho verificato facendo appunto un lavoro dove le riunioni sono molto importanti e quindi già essendo abituato a fare tante riunioni anche in videoconferenza sto notando in questi giorni che si fa difficoltà utilizzando gli strumenti gratuiti che sono online e quelli classici che è inutile che diciamo ripetiamo per evitare di fare pubblicità. E sto notando che in certe ore della giornata, specialmente alla mattina presto, ci sono dei problemi perché c'è un traffico anomalo, cioè molti ne stanno usufruendo. Quindi videoconferenze, troverete tantissimi servizi di videoconferenze che normalmente sarebbero a pagamento e che in questo caso vengono forniti con appunto degli omaggi, degli omaggi a tempo limitato per un periodo limitato di tempo o per un ammontare di minuti limitato o quant'altro. Ci sono poi tanti servizi cloud dei principali fornitori di servizi di cloud pubblica mondiali che vi danno, vabbè, questa è una cosa un po' tecnica ma può servire per chi si occupa di IT, danno la possibilità di prendere o dei software as a service, come si dice, no? Oppure degli spazi, dello spazio disco, oppure dei servizi per l'elaborazione, dei servizi per lo sviluppo, insomma tutta una serie di servizi cloud che vengono dati dei voucher, delle gratuità. Poi ci sono tanti abbonamenti gratuiti a dei magazine online di vario genere, di varie tipologie, si va veramente dalla pesca sportiva al magazine di estetica piuttosto che magazine culturali di teatro, di cinema o quelli scandalistici, ce n'è un po' per tutti i gusti. Poi ci sono in omaggio anche delle email di posta elettronica certificata da 1 giga, pensate un po'. Ci sono poi i webinar di formazione per creative learning e coding, due discipline che insomma nelle intenzioni di chi le propone dovrebbero servire per formare le giovani menti, giovani e più giovani che stanno facendo percorsi di studio e che potrebbero accedere a queste nuove forme di istruzione sulla codifica del software o altre forme creative di apprendimento. Ci sono tanti che forniscono delle cosiddette piattaforme di classe digitale, cioè perché consentono a docenti da smartphone, tablet o computer di realizzare delle vere e proprie classi online, cioè dove condividere materiali, creare discussioni, discutere sui contenuti, gestire i lavori di gruppo, le verifiche, i test, tutte cose che potrebbero in effetti essere utili in questo momento, ma anche in altri momenti. Quindi in qualche modo questi strumenti diciamo sono sicuramente interessanti, anche se ovviamente da soli non bastano per completare quella che è l'insegnamento in tutti i suoi aspetti. Ci sono tante soluzioni per la rilevazione delle presenze, ecco, questo è un elemento molto importante a nostro avviso. Perché? Perché uno fa capire qual è la situazione, no? Il datore di lavoro vuole sapere chi è presente, sebbene in regime di smart working, e quindi ci sono degli strumenti per vedere, per verificare che il dipendente è presente, e ci sono strumenti software che consentono di fare questo. Quindi rileva le presenze, le attività dei lavoratori delocalizzati in smart working. E ovviamente qui si aprono anche problematiche di privacy, ma si dice che la localizzazione non viene rilevata se non in fase di avvio della timbratura. Vabbè, diciamo qui si aprirebbe tutto un capitolo, no, riguardo alla privacy. Comunque sono delle piattaforme che servono per la timbratura, diciamo così, del cartellino da remoto. Ci sono riviste sportive, corsi di italiano per stranieri, ripetizioni online gratuite, riviste e libri di ogni tipo. E addirittura ci sono in questo pacchetto detto solidarietà digitale dei servizi di colloquio psicologico in videochiamata. Questo può essere utile, io personalmente penso di averne bisogno in questo momento di vita tra le mura domestiche, vita forzata tra le mura domestiche. Ci sono anche tante news sul coronavirus da parte dei principali organi di stampa, di diffusione delle notizie a livello mondiale. Addirittura un servizio di fatture elettroniche da PDF a XML per insomma il cosiddetto SDI, che raccoglie tutte le varie fatture elettroniche. Sapete che dal 2019 ormai è un obbligo, e quindi ci sono dei servizi che vengono dati gratuitamente in questo periodo anche per questo genere di necessità. Altra economia regala tre numeri, quello di marzo, aprile e maggio, interessante, è un mensile molto bello che insomma parla anche di temi di cui spesso ci siamo occupati anche nella trasmissione Entropia Massima, e direi un po' anche in tutto il palinsesto di Radio Onda Rossa. Abbonamento trimestrale gratuito anche a Film TV, che ci parla di cinema, televisione, musica e spettacolo, riviste telematiche di diritto, sistemi un po' più avanzati per fare software defined networking, cioè reti definite da software. Queste sono soluzioni un po' più diciamo di livello tecnico per chi fa IT. Soluzioni di comunicazione e di videoconferenza, tantissime, ne vedrete proprio elencate, proprio si ha veramente l'imbarazzo della scelta. Scienza Express, attività di esperimenti da svolgere a casa con bambini e ragazzi, pure offre dei speciali pacchetti gratuiti in questo momento di difficoltà. 300.000 titoli accademici online per un mese, troverete tra i vari servizi. Recruiting, software per fare recruiting in cloud, il recruiting sarebbe i colloqui di lavoro, no? Quindi fare assunzioni. Le assunzioni già prima del coronavirus si facevano in buona parte anche con dei software di videoconferenza, sebbene chiaramente stare vicino alla persona ha tutto un altro approccio, ma è abbastanza efficace anche il recruiting fatto attraverso videoconferenza. Devo dire che mi è capitato di provarlo in varie circostanze, non è affatto male. Quindi adesso ti regalano anche delle piattaforme per fare questo, quindi gestione di tutti i processi di... Sostanzialmente questi software fanno la gestione di tutti i processi di selezione del personale. Il saggiatore dà degli ebook in regalo. Poi ci sono dei software per la gestione dei sinistri in digitale, molto buoni per gli intermediari assicurativi e i broker assicurativi. Tante sono le piattaforme di e-learning che potete selezionare tra questi servizi. Quelle ovviamente a pagamento, che in questo caso saranno temporaneamente gratuite. Ci sono addirittura delle vetrine online per acquisto di prodotti made in Italy, il centralino telefonico virtuale, questo è un altro elemento che potrebbe essere molto importante. Noi stiamo utilizzando degli strumenti, come dicevamo all'inizio di trasmissione, per così dire agili, per le trasmissioni agili, per tutti coloro che non possono recarsi in redazione per vari motivi. E quindi tra questi sicuramente andremo progressivamente a introdurre anche quelli che consentono di chiamarci durante le trasmissioni, non in questa purtroppo, che invece è una trasmissione registrata che stiamo trasmettendo dopo averla registrata. Però ecco, come vedete, quindi ci siamo dotati anche noi di questi strumenti, gradualmente stiamo facendo sì che tutti e tutte quelli che trasmettono, se vogliono o se devono, li possono utilizzare. Ci sono software di monitoraggio del cantiere a distanza che servono per ridurre il numero di attori coinvolti durante il sopralluogo, anche questi mi sono sembrati piuttosto interessanti tra quelli elencati e ve li cito. Software per il controllo di dispositivi aziendali da remoti, tante sono le riviste, abbiamo detto, di teatro, di ecologia, di estetica, tanti sono anche i software che aumentano la produttività dei collaboratori nella gestione dei documenti, quindi software documentali, piattaforme documentali. Ci sono addirittura dei software per il marketing, per fare il cosiddetto lead champion, cioè tutta quell'attività che serve per generare e per curare nel tempo gli elenchi di contatti che gli addetti marketing fanno, quindi tutti quelli a cui andare a rompere le scatole per proporre le proprie offerte commerciali. Tanti sono, abbiamo già detto, i software che aiutano a fare timbratura presenze. Treccani Scuola offre tante risorse. Ci sono anche servizi di assistenza informatica da remoto, una cosa fondamentale in questo periodo in cui in tanti e in tante si troveranno appunto a cimentarsi con strumenti, e io che mi occupo di questo per lavoro sto ricevendo tante chiamate sia da clienti sia anche da amici che insomma mi chiedono un aiuto per gestire tutti quei lavori che ora si trovano a fare da remoto. Poi ci sono tutti i servizi per l'education, su questi è molto importante dire che chiaramente essi non possono sostituire l'insegnamento diciamo fisico, lo vogliamo dire, anche se meriterebbe una puntata a sé, non è detto che non la faremo, e soprattutto vengono proposti dai giganti di quella che è l'economia dell'attenzione, no? Quelli che vogliono attirare la nostra attenzione e quindi poi vendere agli inserzionisti spazi dentro i quali gli inserzionisti possono, diciamo, usarci come target per le loro proposizioni commerciali. I giganti in questione sono i soliti che citiamo durante queste trasmissioni: Google, Microsoft, Apple, Amazon e quant'altro, Facebook. Tutta questa gente qui sta proponendo delle suite per la formazione. Attenzione, perché insomma si apre anche quella che non è più un'opportunità, ma diventa chiaramente cioè un'opportunità, insomma, nel senso positivo del termine, ma un'opportunità nel senso proprio mercantilistico, perché chiaramente data una dose si creano delle dipendenze. Poi ci sono le smart tales, quindi favole che possono essere raccontate ai bambini, audiolibri, cose del genere. Poi ci sono servizi di file storage, cioè servizi che consentono di parcheggiare i propri file, i propri documenti elettronici in luoghi, questi luoghi virtuali. In genere ti danno gratuitamente dei piccoli spazi. In questo periodo questi spazi vengono estesi, quindi ti danno più giga a disposizione, oppure ti danno per un periodo limitato di tempo più giga e poi dopo sarai costretto a pagare. Quindi insomma fate sempre attenzione a quello che prendete. Poi ci sono servizi per lo streaming televisivo, riviste di zootecnia, questo l'ho voluta riportare perché è davvero interessante. Ci sono anche dei servizi cosiddetti di medico al telefono, consulenze telefoniche in momenti di panico e di sconforto, certamente utili in questo momento. Ecco, quindi adesso è inutile che ce li vediamo tutti quanti, tutti questi sono i servizi appunto della cosiddetta solidarietà sociale che in questo momento sono stati raccolti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per iniziativa del Ministero dell'Innovazione e che sono a disposizione di tutti e tutte noi. Chiudiamo questa seconda parte di trasmissione con una proposta di Miguel Brieva che abbiamo letto direttamente da Comune Info, pubblicata il 14 marzo. Approfitta, diciamo, di cioè ci dà sostanzialmente delle, diciamo così, nove punti di attenzione, nove elementi di una linea guida che potremmo considerare in questo momento particolare relativamente a quello che sta succedendo, a quello che il modo in cui si potrebbe trasformare la società. Vediamoli, sono nove. Il primo: prendere coscienza, rallentare, pensare, usare la nostra immaginazione. Secondo, vedere quanto possa essere veloce e facile ridurre le emissioni e come possa essere pulita l'aria nelle nostre città. Questa è una cosa che stiamo riscontrando, no? Si vede in maniera molto chiara, ci sono anche dei dati online che possono essere visionati, che dicono proprio questo, no? Riferiscono proprio questo. 3. Porre fine al turismo predatorio, in questi giorni in cui il turismo è pari a zero, possiamo anche renderci conto che forse c'è un modo diverso di fare turismo che sia, diciamo, rispetti maggiormente quelli che sono i luoghi visitati, sia come ambiente che come zone monumentali, quindi il cosiddetto turismo responsabile. 4. Riconoscere il ruolo vitale dei nostri servizi pubblici. E questo abbiamo detto che è molto evidente in un momento in cui si creano dei vuoti, degli spazi vuoti dentro i quali noi possiamo riconoscere questi servizi pubblici. 5. Renderci conto che lavorare in remoto è fattibile, è proprio il tema fondamentale di questa puntata, che stiamo analizzando in questa puntata. 6. Una grande occasione per condividere il lavoro e i doveri di cura. 7. Dimostrare il potere della comunità, quindi delle piccole comunità, contro le cose fatte su grande scala, quindi sempre, diciamo, riportare a un localismo, ancorché virtuale, a piccoli gruppi tra loro federati, è quella che può essere un'azione più efficace. 8. Prendere coscienza del nostro potenziale empatico e collettivo di preservare la vita. 9. Vedere come potrebbe essere una società della decrescita, anche se solo per un breve momento. Ecco, su queste linee guida ci fermiamo ancora un momento e rimaniamo ancora in compagnia della splendida voce di Ginevra Di Marco. Vi faccio ascoltare un brano che non ha bisogno di presentazioni. Cambia ciò che è più profondo, cambia il modo di pensare, tutto cambia in questo mondo, cambia il clima con il tempo e il pastore con il gregge, tutto cambia mano a mano e che anch'io cambi non è strano. Cambia, tutto cambia. Giorno più splendente, cambia rotta il pellegrino, cambia il cuore di ogni amante, cambia il passo del viandante, anche se si fermerà, tutto cambia mano a mano e che anch'io cambi non è strano e allora cambia, tutto cambia. Riprendiamo dopo questa versione in italiano di Todo Cambia, cantata da Ginevra Di Marco, parlando di comunità virtuali, un tema di cui abbiamo più volte parlato durante questa trasmissione. Nel 2016 ci sono state le elezioni negli Stati Uniti che hanno portato alla vittoria di Donald Trump e si è pensato che questo sia stato determinato in buona parte dall'uso che è stato fatto dei social network e diciamo dei dati delle persone in quella circostanza. Quindi è stata chiamata in causa Silicon Valley, intesa come luogo dei giganti che gestiscono i dati e gestiscono il business connessi con i nostri dati. Una delle realtà che ha avuto una reazione forte in questa circostanza, in questa chiamata in causa, è stata Facebook, perché sappiamo che il business di Facebook è quello del social networking. Ci sono stati alcuni mesi di riflessioni e il 16 febbraio del 2017 è stato emesso, no, da Facebook il cosiddetto manifesto per costruire una global community. Questo è il termine che è stato utilizzato. È stato presentato da Zuckerberg, che nella presentazione ha parlato di droga e totalitarismo come i fenomeni che distruggeranno le comunità umane. E diciamo sostanzialmente quello che Zuckerberg ha detto nel suo discorso è stato che le partecipazioni alle associazioni, alle comunità, si sono ridotte di un quarto, si sono ridotte del 25%. Questa è una cosa che noi notiamo molto molto chiaramente anche dalle nostre parti, no? La vita collettiva, no? In gruppi di qualunque tipologia essi siano, non solo gruppi politici ma anche gruppi sportivi, gruppi di interessi, si è andata riducendo con l'introduzione dei social networking. Sicuramente quello ha fatto una buona parte, e questo l'hanno calcolato, è pari al 25%, si è ridotta del 25% le partecipazioni della gente ai gruppi fisici, alle comunità. Mark Zuckerberg in quella circostanza ha detto che Facebook ha preso in carico l'obiettivo di ricostruire queste comunità con i suoi tool, con i suoi splendidi software che mette a disposizione di tutti quelli che utilizzano la simpatica piattaforma. E quindi sostanzialmente lo sforzo di Facebook sarà quello di utilizzare l'intelligenza artificiale per poter suggerire ai propri utenti dei gruppi che abbiano per essi ed esse un senso, che siano in qualche modo gruppi nei quali le persone possano riconoscerci. Quindi la idea che ha di comunità Mark Zuckerberg è ovviamente un'idea vicina a quello che è il suo business, cioè la comunità è intesa come comunità virtuale, cioè di persone che possono unirsi in gruppi virtuali e fare delle cose insieme. Lui si dà anche un obiettivo, dice che grazie a Facebook ci sarà un incremento del 50% di persone che vorranno unirsi in comunità fatte in questo modo. E l'idea è quindi quella di raggiungere il miliardo, sono 2 miliardi infatti gli utenti di Facebook nel mondo, e quindi l'obiettivo di Facebook è diventato quello di garantire a 1 miliardo di persone la possibilità di unirsi a comunità virtuali dentro le quali fare delle cose con gli altri. E questo, nelle intenzioni dichiarate da Mark Zuckerberg, ci sarebbe appunto quello di rafforzare quella che lui chiama la social fabric e di portare quindi il mondo più vicino a tutti noi, tutti insieme. Cos'è la social fabric? Cioè l'idea di costruire di costruire proprio le basi della società attraverso le comunità, cioè le libere associazioni di persone che si ritrovano insieme a fare delle cose insieme. Dopo molti mesi da questa dichiarazione di intenti è scoppiato lo scandalo Cambridge Analytica, cioè è successo che i dati di Facebook si è scoperto che sono stati utilizzati per manipolare le elezioni, molte elezioni sono state manipolate con quei dati. A noi questo ovviamente non ci ha fatto né caldo né freddo questa notizia, ma ha avuto una, perché ovviamente nel tempo noi abbiamo più volte segnalato, no, quello che succede con i dati delle persone, però in effetti ha avuto una eco mediatica molto molto importante, sicuramente non sarà sfuggita a chi ci ascolta. Verrebbe da dire che prima di costruire delle nuove comunità forse è il caso di garantire la privacy e la sicurezza di quelle esistenti. Saremo anche diventati degli dei, come dice Yuval Harari, che spesso ha che spesso ha ispirato queste trasmissioni, ma siamo ancora degli animali, gli stessi animali che esistevano all'età della pietra. Noi abbiamo bisogno di comunità fisiche, di comunità intime, abbiamo bisogno di essere in presenza, abbiamo un corpo e siamo in un ambiente fisico. Infatti si dice anche che tendenzialmente ognuno di noi può conoscere 150 persone. Questo è un magic number, un numero magico che si cita, che è il risultato di, insomma, ricerche sociologiche di vario genere. Ciascuno di noi tendenzialmente, in media, o fate quel che volete, conosce 150 persone. O comunque poche decine di persone sono quelle che riusciamo a coltivare come amicizie, come conoscenze, conoscenze con le quali instaurare delle comunità fisiche. Le comunità fisiche, è vero, sono state disintegrate, quello che dice Mark Zuckerberg è vero, si sono contratte del 25% nell'ultimo decennio. Quelle immaginarie, quelle virtuali, non possono competere con queste, diciamocelo. Si tratta di qualcosa di simile alle narrazioni no, di altro genere, no, narrazioni come la nazione, i partiti politici, il mercato, sono tutti luoghi virtuali, sono tutti luoghi virtuali, non sono delle comunità fisiche dentro le quali davvero riconoscersi, no? Ma sono dei luoghi in cui credere di essere, quindi delle narrazioni. Zuckerberg vorrebbe ricollegare gli esseri umani tra di loro, vorrebbe aumentare la capacità degli esseri umani di formare comunità, quindi tornare ad attuare quella che è una delle attività più vantaggiose del vivere insieme, cioè formare comunità. Questo è un intento sicuramente nobile, ma affinché non siano solo chiacchiere, ci vuole qualcosa di più sostanzioso. Il business model su cui è basato Facebook serve per catturare l'attenzione della gente e venderlo agli inserzionisti. Questo è il global scope di Facebook. L'intelligenza artificiale che usa, che Mark Zuckerberg vorrebbe utilizzare per far riallacciare, alle persone, dei legami. Sicuramente è un obiettivo molto più ambizioso que di quello di guidare delle automobili, l'automobile è guida autonoma, o di diagnosticare il cancro. Anche di questo abbiamo parlato. L'intelligenza artificiale dà un'enorme mano nei processi di diagnosi medica, perché riesce meglio dell'uomo a comprendere, semplicemente dall'analisi dei test diagnostici, la presenza di malattie gravi. E questi però sono utilizzi dell'intelligenza artificiale piuttosto standard, piuttosto alla portata dell'attuale livello tecnologico. Invece, utilizzare l'intelligenza artificiale per far ritrovare le persone insieme in comunità è uno scopo molto, molto più grande. E ora sappiamo che esiste un vero e proprio piano di ingegneria sociale pianificato centralmente su una scala globale, e questo piano è quello di Facebook. Naturalmente, se poi questo piano avrà successo, altri lo faranno, e quindi è probabile che gli algoritmi diventeranno dei maestri delle reti sociali umane. Ricordiamoci sempre che Facebook ha 2 miliardi di utenti. Quello che stiamo cercando di dire è che se può iniziare con un incontro online, la comunità, beh, però deve avere comunque anche un incontro offline in quella che è la vita fisica. Noi siamo persone che hanno un corpo e che vivono in un ambiente. Siamo così, siamo animali che da milioni di anni vivono così, no? Per citare anche tutti gli ominidi e gli animali da cui deriviamo, siamo derivati nel tempo. Noi siamo questo. La domanda si può porre in un altro modo. Se chiudono Facebook, le comunità virtuali che su Facebook esistono, si vanno a ricreare? Si rigiuntano quelle persone che si giuntarono virtualmente anche nella vita fisica? Faranno quindi delle manifestazioni insieme? Le persone fisiche, le comunità fisiche hanno una profondità che non è paragonabile a quella del virtuale. È anche un'utilità pratica nella vita delle persone molto, molto specifica. Le tecnologie ci stanno tenendo distanti dai nostri corpi, ma noi, in qualità di esseri umani, abbiamo dei corpi. Quindi, se per esempio pensate al prestare attenzione, l'odorare e il toccare, queste tre cose, sono state recentemente aggredite dalle tecnologie per la comunicazione a distanza, per la creazione di comunità virtuali, no? Noi facciamo fatica a prestare attenzione alle cose, non utilizziamo più come un tempo l'odorare e il toccare, e quindi, no? Questi sensi. Siamo molto su occhi e orecchie, no? Nel video. Un tempo i cacciatori e raccoglitori cercavano i funghi nella foresta e quindi dovevano avere delle abilità molto specifiche, molto complete. Inoltre, dopo averli trovati, sapevano pure riconoscere quelli che erano velenosi da quelli che erano buoni. Oggi noi compriamo dei funghi coltivati, diciamo così, mentre mandiamo un messaggio su WhatsApp, perché le autorità di salute ci garantiscono che quei cibi che noi stiamo acquistando sono cibi buoni e che possiamo mangiare. Poi andiamo a mangiarli, magari li mangiamo davanti allo schermo e prestiamo poca attenzione al gusto che hanno queste cose. Quindi sostanzialmente queste tecnologie ci stanno distanziando sempre di più dal fisico, inteso come ambiente fisico, ma anche dal corpo fisico, dal nostro stesso corpo. Le persone sono incoraggiate a capire cosa succede in funzione di come gli altri lo vedono. Quando abbiamo un'esperienza, siamo incoraggiati a, si dice, condividere, si usa questa parola impropria, condividere ha tutto un altro significato. Io dico pubblicare, siamo incoraggiati a pubblicare, cioè a inviare l'immagine, l'audio di quella cosa che sta succedendo a degli altri, perché vogliamo sapere che cosa ne pensano gli altri, vogliamo sapere se lo trovano interessante, vogliamo che loro approvino quello che abbiamo mandato. Quindi mandiamo immagini, mandiamo video, mandiamo degli scritti, li mandiamo. Essi dovrebbero catturare delle situazioni in cui noi siamo protagonisti, quindi dovrebbero essere il contraltare di quello che proviamo, ma il sospetto è che noi proviamo sempre meno emozioni e che le andiamo a provare quando gli altri ci dicono cosa hanno provato vedendo il nostro invio. In quel momento forse proviamo delle emozioni, le reazioni degli altri ci suscitano delle emozioni, mentre l'esperienza in sé non ci suscita queste emozioni. Ecco, io ho pensato a questo e ho pensato per esempio a mentre preparavo questa puntata, io mi sentivo esattamente così, cioè io stavo cercando diciamo mettere per iscritto tutta una serie di considerazioni tratte da varie fonti da cui diciamo mi sono ispirato, e quindi è un lavoro, no? Anche se questo che sto facendo non è un lavoro retribuito, però è pur sempre un lavoro, è un'attività, no? che implica una certa professionalità, implica un certo impegno. Ecco, sembrerebbe quasi che il nostro sharing, condividere, no? Il nostro mandare in giro le cose che ci riguardano, sia come un lavoro, cioè noi vogliamo fare delle cose che poi gli altri dovranno ascoltare, dovranno vedere, e dobbiamo vedere quali sono le reazioni degli altri. Questo ha senso quando uno fa un lavoro, no? Quando uno fa un lavoro editoriale, sicuramente ha senso, no? Perché dice: che cosa diranno gli altri di questa puntata che sto facendo? E questo è giusto dirlo, perché si sta cercando di fare un servizio, ma è un lavoro, ancorché non retribuito. Ma in una relazione amicale, nella costruzione di una comunità, chiamatela come vi pare, questo è improprio porsi in questo modo. C'è una vera e propria alienazione, quindi le persone sono estraniate dal corpo, dai sensi, dall'ambiente fisico, sono disorientate. Molto di più che, no? Spesso si dice: oggi siamo disorientati perché abbiamo perso il concetto di nazione, abbiamo perso il concetto di religione. Ma questo è niente. Le narrazioni della nazione e della religione a noi non ci sono mai servite. Gli umani hanno vissuto per milioni di anni senza religioni e senza nazioni, hanno vissuto benissimo. Quindi l'alienazione che eventualmente si può avere perché ci mancano questi punti di riferimento è nulla rispetto all'alienazione, al disorientamento che stiamo vivendo, diciamo, a causa di un uso eccessivo e spinto di queste tecnologie fatto in questo modo, no? Appunto, che ho utilizzato questa metafora come se stessimo lavorando, come se stessimo esibendo qualcosa per l'approvazione di qualcun altro, no? Anche quando semplicemente si tratta di un amico, Nessuno di noi è esente da questo, quindi qui non stiamo facendo i preti che predicano bene e razzolano male, tutti quanti siamo indistintamente presi, chi più chi meno ovviamente, ma tutti quanti, tutti e tutte siamo presi da questo tipo, perché questa è una cosa che appunto gli ingegneri di Facebook stanno studiando e quindi ci fanno un mazzo tanto, no? Non si può vivere sconnessi dal corpo. Se non ti senti a tuo agio nel tuo corpo, non puoi sentirti a tuo agio nel mondo. Facebook incoraggia a passare tanto tempo online a detrimento delle attività offline. Si può pensare a un modello che non faccia questo, un modello di business di Facebook che non faccia questo? Bah, a me pare molto molto strano, no? C'è anche chi, come Tristan Harris di Google, ha scritto delle linee guida, un blueprint sul tempo speso bene. Io non credo alle linee guida perché sono solo parole, poi nessuno poi le segue realmente, contano le cose che le persone fanno. Di fatto però siamo esposti a una polarizzazione sociale. Zuckerberg ci dice che non è opportuno mostrare dei testi, degli articoli delle fazioni opposte, perché questo polarizza e tende a far vedere gli altri come stranieri, come estranei e quindi come nemici, no? Motivo per cui, per esempio, organizza l'informazione in modo tale che noi non vediamo mai pareri contrari, no? Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui si creano le cosiddette filter bubbles, cioè queste bolle in cui ci fanno vivere, in cui ci propinano solo ciò che a loro giudizio è giusto, no? che ci venga propinato. Invece è importante conoscere gli altri al di là delle proprie opinioni, dice Zuckerberg, ritrovarsi nello sport, parlare di programmi televisivi, di hobby, e quindi dice è più facile avere dialogo su cose in comune, su cui magari ci si scontra, ci si ha un disaccordo, ma fondamentalmente su interessi comuni. Di sicuro, diciamo, questa è una sua tesi, di fatto questo sta facendo, di sicuro noi diciamo che è difficile riconoscere gli altri come un insieme, no? As a whole, come si dice in inglese, no? Come un insieme unico, una comunità mondiale, no? di cui sentirsi parte. Ci vogliono le interazioni fisiche e noi abbiamo detto che tendenzialmente arriviamo a 150 intimi, dopodiché finisce la nostra capacità di coltivare relazioni, intessere relazioni e creare comunità fisiche. È vero, gli umani possono sentirsi leali a diversi gruppi contemporaneamente, quindi creando tantissime comunità virtuali si potrebbe spingere molto oltre questo limite, e quindi potrebbe essere un gioco non a somma zero, cioè in cui non è che per far parte della comunità degli amanti della pesca sportiva non riesco a far parte della comunità degli amanti dei cornetti fatti in casa, che ne so, delle pescemenze, no? È vero, ne posso creare n quante voglio, ma quelle fisiche invece sì, sono a somma zero, cioè se esagero nel numero di relazioni, a un certo punto questo andrà a detrimento di altre, appunto c'è sto numero 150 che è quello che è uscito fuori da chi ha studiato questa roba. Non ce la fai, quindi, per fare amicizia con quello che sta lontano, magari in Australia, l'aborigeno, no? come diceva Corrado Guzzanti, perdi poi il contatto col vicino di casa. Quindi si parla di ritorno al fisico. Quello che ha affermato Facebook, no? di voler fare ritornare le persone a unirsi in comunità, ce la fa a inventare un tool che possa far spendere più tempo nelle cose offline invece che online? Ma pare difficile, visto che Facebook proprio vuole che noi stiamo online e guadagna dal fatto che noi stiamo online. I suoi interessi finanziari sono il contrario di questa possibilità, di questa dichiarazione di intenti, a meno che non si inventino un altro modello di business, ma ci pare difficile, no? Considerate l'enormità degli interessi finanziari che circolano intorno a Facebook. Per questo spesso si parla anche di tassare Facebook, dico Facebook per dirne uno qualunque, perché poi gli altri sono uguali, adesso stiamo parlando di questo come esempio. La tassazione, sappiamo che queste entità multinazionali riescono a evadere in tanti altri modi, lo fanno tutti, è proprio un classico, no? Quindi attraverso tutta una serie di strumenti di presenza territoriale in diversi luoghi si riesce a evadere le tasse, si fanno quindi i cosiddetti bilanci creativi. È molto difficile inchiodarli alle loro responsabilità, essi forse si sentono di offrire un servizio essenziale, Può darsi, dice, cavolo, io do a 2 miliardi di persone la possibilità di unirsi in comunità virtuale, di scambiarsi delle foto, dei testi, questo è un servizio essenziale. Può darsi che sia vero. E quindi, però, diciamo, arrivare da qui a dire che poiché usufruisce di fornisce un servizio essenziale, può permettersi di non pagare le tasse, beh, diciamo che non mi sta bene, anche perché ci sono anche altri servizi essenziali. Gli uomini hanno bisogno di strade, di ospedali, di sistemi fognari. Questi come fai a finanziarli? Devi pagare le tasse, non c'è niente da fare, no? Quindi noi non nutriamo alcuna aspettativa sul fatto che ci sia un cambio di business model da parte di Facebook. Noi pensiamo che le vere rivoluzioni sono quelle che dovranno sacrificare le corporation, e gli azionisti non vorranno sacrificare le corporations. Quindi per fare rivoluzioni servono armi e non servono dichiarazioni di intenti, no? Anche la cosiddetta primavera araba, no? Che appunto ha consentito nel 2011 a tante persone nei luoghi dell'Africa settentrionale e della parte medio orientale di ritrovarsi online, e poi dopo essersi ritrovati online andare offline e poter continuare quelle manifestazioni. Perfetto, offline sono stati soggiogati completamente da fanatici religiosi e da militari, per cui signori, non dobbiamo sperare in tutto questo, quindi dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo vigilare. In questo momento appunto abbiamo voluto parlare di tutti gli strumenti di smart working, che sicuramente sono un'opportunità, ma attenzione, perché c'è chi comunque sta tessendo una trama molto chiara, e quindi come sempre noi vogliamo diciamo sollevare dei punti critici e sollevare l'attenzione su questo. Bene, allora ci chiudiamo qui questa puntata di Entropia Massima in modalità smart working, come abbiamo detto simpaticamente. Ci sentiamo lunedì prossimo. Un abbraccio a tutti e a tutte. Siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, la radio che non campa d'aria. Invitiamo tutti ad andare sul sito e a sottoscrivere un radio abbonamento.